Beh, è da un po' di tempo che con tante realtà europee italiane che si occupano di rifugiati, che si occupano di accoglienza, di diritti, ci interrogavamo su come sfidare gli egoismi nazionali che stanno impedendo a livello europeo quelle soluzioni comuni europee che sono indispensabili davanti a questa sfida che nessuno Stato membro può affrontare da solo. E allora abbiamo pensato che ci volesse proprio una grande mobilitazione europea per fare pressione sul Consiglio che si riunisce il giorno dopo, giovedì. Per dire cosa? Per dire a tutti i governi che devono fare la propria parte sull'accoglienza, perché chiedere di cambiare il regolamento di Dublino, che è la madre di tutte le ipocrisie, nella direzione in cui già lo propone il Parlamento, e cioè superando quel criterio ipocrita del primo paese e per una condivisione piena delle responsabilità tra tutti gli Stati dell'Unione, ma chiedendo anche, questo faremo riempiendo le piazze più belle d'Europa di barchette di carta alle 6 in punto. Abbiamo già più di 100 piazze in tutta Europa che hanno aderito, più di 100 organizzazioni e più di 3.000 persone. Riempiremo di barchette di carta queste piazze per chiedere davvero finalmente ai governi di rimettere al centro quel principio di solidarietà su cui l'Unione si fonda e senza il quale è perduta. Queste ultime settimane, penso al governo italiano, non è molto chiara la strategia a livello europeo, cioè se è chiaro che i porti vengono chiusi, il Parlamento europeo aveva approvato una riforma di Dublino, del regolamento di Dublino, che va incontro a quella che è appunto la situazione italiana, ma Salvini ha fatto un asse con Orban, insomma cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'Italia deve decidere da che parte stare, perché nel governo convivono due posizioni diverse. Da una parte, appunto, anche in un documento uscito domenica da parte italiana, in cui, benché sia stato presentato come rivoluzionario, non c'è niente di nuovo. Una gran parte sono le solite politiche di esternalizzazione che non hanno mai ottenuto nulla se non di violare diritti fondamentali altrove e di risolversi nell'apertura di nuove rotte, sempre più pericolose, sempre verso l'Italia e la Grecia. L'altra parte è la riforma di Dublino, che sostanzialmente ha già approvato il Parlamento europeo, cioè piuttosto da chiedersi perché le due forze che formano il governo non la votarono in aula insieme a noi a novembre dell'anno scorso. Ora, non c'è altra soluzione per l'Italia che la riforma di Dublino, quindi la solidarietà interna, quindi cambiare quel regolamento in base a cui gli altri paesi per anni hanno potuto rimandare migliaia di persone in Italia solo per il fatto di essere entrati in Europa dall'Italia. Ovviamente vedremo uno scontro duro tra i paesi Visegrad, quindi Orban, l'Ungheria, Polonia, Slovacchia, ma anche l'Austria. Salvini continua a cercare di fare asse con questi paesi sacrificando l'interesse italiano su una partita così fondamentale come quella della solidarietà interna e della condivisione delle responsabilità sull'accoglienza. Lo fa perché gli serve politicamente un asse che ha come unico fine quello di smantellare l'Unione Europea, quindi non vuole davvero soluzioni alla questione migratoria, vuole fare un suo personalissimo gioco politico. Ancora maggior ragione, ribadisco, è importante reagire con forza in tutte le piazze, lo faremo anche a Bologna alle 6 nella piazza del Nettuno. Ringrazio la coalizione civica per avere prontamente raccolto il nostro invito e ovviamente anche possibile Bologna, perché saremo in tanti, c'è anche Amnesty, insomma ci saranno tante organizzazioni, tutti sono invitati alle 6 a partecipare e portare le loro barchette.